valutare tutti gli aspetti di questo nostro tempo, che non può solo essere considerato storico. Ma ringrazio la storia per essersi rivelata senza farmi male. Fisicamente male. Appoggiato alla propria balaustra con la barba e i capelli incrostati dalla salsedine che sale da quelle onde che si scontrano sulle rocce poste alla base di quel faro che non appena illuminato gli permette di perdere gli occhi nell'orizzonte del mare in maniera ritmica, fondendosi con la luce della luna. Auto di Shell si immerge nei propri pensieri. Come una bestia in tana, cantando canzoni d'appartamento. Come una bestia in tana, mantengo cauto l'appostamento. Thank you.

quello status che in un modo o nell'altro ti pervade, fa parte di te, ti guida, quello status che ti permette di non dover mai dipendere da qualcuno nelle tue scelte, neanche uno status difficile da realizzare, perché nella vita quotidiana le tentazioni sono tantissime. Per questo è uno status importante. Con un piccolo insignificante granello di sabbia nel deserto, o come una pioggia di lacrime che si immergono nell'oceano. È un po' tutto questo, ed emozione, è questo. Presuntuosamente la fa presentare come un intervento sociale. Out of the Shell fa parte di un grande contenitore. Questo contenitore si chiama Transizione di Fase. È un contenitore da dove confluiscono tante forme di comunicazione, comunque fatte sempre esclusivamente di musica, parole, letture. È una sua dimensione di interpretazione del comunicare. Esiste, e questo già lo sapete, solo esclusivamente su internet, sul web, e quindi www.transizionedifase.org è il contenitore, poi www.outoftheshell.it e www.ots.it sono la storia e l'interazione. Poi, se vorreste interagire con Out of the Shell, allora due sono i modi con cui farlo. Entrambi corrispondenti al quello che è il divenire della comunicazione, ossia potete inviare le vostre email a ots@libero.it. Oppure potete comunicare con l'orso. Dovete utilizzare gar@hotmail.it, che è l'indirizzo sull'MSN con cui interagire. Chiaramente gar, e si scrive kaar@hotmail.it. Apro gli occhi e ti penso, ed ho in mente te, ed ho in mente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te, ed ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. Io lavoro più forte, ma ho in mente te. Ti penso ed ho in mente te, ed ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. Partiamo velocemente stasera. Partiamo da un piccolo concetto filosofico che in un modo o nell'altro fa parte della trasmissione di stasera. Se non l'avete fatto, andate sul post di oggi su www.autopascelle.it o www.autopascelle.it, così ci capiamo. Io quando parlo do per scontato che si va a visitare e si sa in anticipo quello che in un modo o nell'altro l'argomento della trasmissione prossima. Questa sera vorrei parlare di me, un po' di come la penso, perché spesso e volentieri raffrontarsi con quella che è la comunicazione in modo di ciò che avviene, mettersi là ad analizzarlo, a combattere, a discutere, spesso non si capisce molto. Allora dovete sapere che sono una persona normale, una persona che come tante altre ha avuto una educazione cattoborghese, ma quel cattoborghese che non nasce dall'opulenza, nasce dal sacrificio, dalla lotta, dalla serietà, dal lavoro. Fin da piccolo a tutta questa educazione mi sono sentito estraneo. Ho cercato sempre di osservare intorno a me ciò che succedeva per comprendere, per imparare, per conoscere, per capire come ciò, quel guscio in cui vivevo, mi era così stretto. Non so se avete mai visto, io non l'ho mai visto dal vivo. Ho visto solo un filmato. Non so se avete mai visto quell'immagine della nascita di un libero nel suo uscio. Quella voglia di fare di rientrare dentro il mondo. Entrare dentro il mondo rompendo quella barriera che nel frattempo era diventata fragile, ma che esso essa che sia, considerando tutte le barriere che hanno, che si hanno, non puoi dare una definizione. Bene, io non ho niente di questo piccolo percorso, questa scalata che non ho fatto, meglio del mondo, c'è un uomo che va con gli occhi, le gambe e le braccia che trascinano giù, e dietro la curva del cuore sono tagliato in due. Lo sguardo è come un lampo che gira e che ti chiede perché. Ma che giorno è? Che rumore fa? Se il buio spacca a metà e i nervi scoperti in un grido no, non rispondono più, e in questo rumore quest'uomo è un soffio e se ne va, è un vento che abita dentro e chiede perché, ma che giorno è? L'amore fa. Queste creature semidive, semidivine, formavano la corte celeste, ma sono anche custodi dell'uomo o di altre creature, buone come l'acqua, il fuoco, il cielo. Nella Grecia antica i daimones sono energia personificata, operano all'interno dell'umanità e agiscono come tutori dell'uomo stesso. Nella filosofia platonica sono esseri umani. Thank you. niente. Con Vito, Eros è un'entità volta al bene superiore dell'umanità. Ma l'angelo custode ha origini ancora più antiche. È già presente negli assiro babilonesi. È una specie di divinità personale di ciascun uomo. Esercita la sua benevola influenza e abbandona l'essere umano solo quando questi commette azioni riprovevoli. Dunque, un vero, autentico amico. L'angelo, carico di conoscenza e potenza, conduce l'uomo, senza forzarlo, verso la ricerca del bene, verso la conoscenza, verso la felicità, tanto da far dichiarare a Menandro: presso ogni uomo alla nascita un buon demone prende il posto per iniziarlo ai misteri della vita. Arrivano veloci e veloci poi scompaiono. Si lasciano vedere come il ghiaccio, si lasciano sentire come il mare. In questa terra scura, fatta di ombre, corvi, chi può, se non preso da momentanea follia, rifiutare un'amicizia così disinteressata e sincera? L'angelo è un amico col quale affrontare la lotta, col quotidiano. Insieme possiamo vincere le difficoltà e superare gli ostacoli. E per di più, l'angelo non sfora né superiorità né competitività. Il resto diventa un dono per suo grado di conoscenza e d'amore. Quella tra angelo e uomo è un'amicizia molto probabile, ma l'uomo deve abbandonare superbia e pigrizia. L'angelo, infatti, davvero amico, stimola ma non agisce per l'altro, e non servono bacchette magiche, ma solo anima e poesia. Angeli dell'iconografia cristiana, da prima efebbici ed asessuali, prendono poi le forme più umane e abiti regali, conservando con ritaggio del passato solo le ali e a questo circo di cani pronto a scendere tra chi innocente non è. Vedrai, vedrai, capirai anche tu perché il grano qui non cresce più e sulla terra delise dei muti. Ora tu lo sai, non cresce neanche per noi. No, non ti illudere, ma lo farai anche tu. Questa vita l'ho svenduta ormai, saccheggiata, disperata e stravolta, senza chiedermi nemmeno il prezzo, qual è? Dal Medioevo fino all'Ottocento spesso si confonde la loro funzione con la loro essenza. L'Angelos, l'inviato, il messaggero, diviene colui che annunzia alla Vergine Maria la maternità di Cristo. Se escludiamo gli angeli del sorriso di Reims, l'angelo di spalle del riposo nella fuga in Egitto di Caravaggio, qualche statua del Bernini e alcuni altri rarissimi casi, gli angeli degni di nota per secoli sono quelli che annunciano la paternità divina. La vita ha preso a correre via e sembrava che ormai non fosse più mia. Descritti benissimo da Rilke. Ho steso ora le ali, sono nella casa modesta, immenso, quasi manca lo spazio alla mia grande veste. Questo è un bel giorno per lasciare il caos ed il disordine dietro alle spalle. Questo è un bel giorno per dire ora basta, no, io ricomincio e riparto da qui. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nel cristianesimo si è ben presto creato una contrapposizione. Da un lato gli angeli buoni, cherubini, arcangeli, vincitori del drago, dall'altro angeli cattivi, satanassi, diavoli, corruttori di anime. In questa contrapposizione nessuno dei due è veramente amico dell'uomo. Amendue infatti combattono per il possesso della sua anima. L'angelo vuole portarla in paradiso, il diavolo desidera trascinarla all'inferno. Ma nessuno dei due cammina come un tempo a fianco dell'uomo per condurlo alla conoscenza. Sacrificio, spinge dentro il mio tormento. macinando sulla vorticosamente, come se cambiasse l'anno, non era camminante. Qui un fango sempre più veloce sta girando tutto intorno senza mai che tocchi me, mentre le chini addosso al mondo. Il cattolicesimo ha parlato spesso degli uffici dell'angelo, ma ben poco della sua natura. A poco queste creature dotate di intelligenza e di libertà sono diventate dottrine di fede, e così la loro proliferazione e forse anche la loro evoluzione si è bloccata. Ha perso sempre più il suo ruolo d'amico ed è diventato un'entità dalla vita difficile, fino ad essere relegato nell'ambito della leggenda o delle fantasie infantili. O riprende con tormento, macina di Dio, ora vorticosamente, qualche immagine vecchia poi non sentirò più niente. Se il nome segreto, il nostro nome segreto fosse il nostro angelo, l'amicizia va protetta dalle banalità e dalla frenesia, va tutelata dal baccano e dall'interesse. L'amicizia ha bisogno di stile, di anima, di poesia. Vorrei azzardare una discrezione. Secondo un antico adagio, il nome pesa sulla personalità. E forse anche per questa ragione che gli angeli dell'annichilamento, nel presentare il disco Antologia Angeli in polvere, prodotto dall'angelo e dall'Angelus Novus, hanno proposto un'iconografia perlomeno inconsueta: unire droghe e angeli. Ma com'è bello! Toglie sostanza alla droga e offre sostanza agli angeli. Insomma, siamo in presenza rosso, delle orme dell'anima. Rosso, rosso, bianco al mattino. Sono dentro un fosso e in mezzo all'acqua sporca. Gli angeli in questo secolo non hanno goduto molto di molto spazio, nonostante le leggi di Rilke o gli angeli di trasformazione di Klee o l'angelo della storia. La, la, la, la, la. Nel di Gianniano, ultimamente gli angeli necessari di cacciare gli angeli berlinesi di Benders. La modernità chiede i suoi sacrifici. Uno di questi è stato l'angelo, amico angelo. Ma com'è bello il vino. Bianco, bianco, bianco, rosso è il mattino. Sento male a un fianco. La modernità chiede i suoi sacrifici. Uno di questi è stato l'amico angelo, lo spazio dell'angelo. In questa società tesa al benessere materiale piuttosto che a quello spirituale, è davvero esiguo. Ma qualche oasi per questa entità ancora esiste. Gli angeli, come il vivere, sono una sorprendente verità. L'infanzia e la sua fertile innocenza non c'è di capasso. La giovinezza viene spesso abbandonata sulle strade e lascia l'acido del rimorso e lo struggimento della nostalgia. Così anche per gli angeli, dimenticati, dispersi, ridotti in polvere. E se parlare di angeli alla fine del millennio è parlare di amici, e se, come dice il beato Egidio di Assisi, l'amico nessuno può meritarlo o guadagnarlo, ma soltanto mettersene alla ricerca, è opportuno iniziare immediatamente questa perlustrazione. Salvato da un suicidio, una pazzia che ha fatto tutto distrutto il mio salvagente. Che oggi, 22-12-1970, posso strillare ancora, a me, agli altri, a tutto ciò che è forza nobile, che niente, nessuno mi ha dato quanto la mia benefattrice, adottatrice, mamma, morfina, che tu sei infinito amore, infinita bontà, che io ti lascerò soltanto quando sarò maturo per la mia morte, quando sarò tanto sicuro delle mie forze, per riuscire a stare in piedi, senza le potenti vitamine. We'll be right back. ammali turchi, piangevano i miei, scimitarre affilate nel nome di Allah, cadevano le teste dei nostri padri e madri, poveri innocenti dal sangue soffocati. Mamma, gli americani piangevano Sioux, mamma, gli americani piangono in Iraq, bombe devastanti sulle loro umanità. Americani, abiti di soldi, vampiri sionisti, nazisti del 2000, si giocano il bottino a padrone sotto, e non sono sazi e non gli basta mai, mamma, i sionisti ci stanno sterminando, fiumi di sangue su Shabra e Shatila, dove come vampiri si vanno a nutrire. Volta i Sioux e gli iracheni, bimbi palestinesi e donne curde. Adesso guardo intorno, sento le loro voci come torce umane scagliate contro il vento. La borsa di Wall Street avanza con fievele, mentre quella umana chiude ormai per sempre. Ed io e la giustizia non sono più quotati. Cresce il lutto, crescono i profitti, le banche centrali si fregano le mani, rifanno i loro ponti, riempiono i forzieri, il sangue manora è come un grande mare, eppure si continua zitti a navigare, il sangue manora è come un grande mare. Thank you. c'è qualcosa che comunque fa parte di tutto questo concetto che ho espresso fino adesso. C'è una parte dell'esistenza che credo che debba fare parte di ognuno di noi, e che debba essere fondamentale dentro ognuno di noi. Ci sta quella scelta che fai, che decidi che in un modo o nell'altro è la tua vita, però nello stesso tempo non è detto che questa scelta faccia parte dell'altra vita. Allora devi sapere fare un passo indietro in quella montagna che devi scalare per comprendere consapevolezza e coscienza, e quella dimensione solo tua. Quella dimensione che appartiene solo a te e a nessun altro. E allora la puoi esprimere, la puoi raccontare, la puoi mettere in metafora, però è quello che, quel fuoco che hai dentro, quel fuoco che ti partecipa, ed è il tuo fuoco, e parte di te, e alla fine di cui non puoi fare a meno, ma che nello stesso tempo è ciò che ti imponi di fare a meno. Io voglio ritornare al mio paese, ma voglio trovare una bella sposa, una sposa molto semplice e cortese, che non mi faccia troppo scomparire. Un bar me l'ha data un cusino, tenda cum de la piglie. Se te la piglie troppo bella, ti ci vuole la sentinella, ogni modo, ogni maniera, o oh, che vuoi una moglie. Se te la piglie troppo brutta, ti rimane la bocca asciutta, ogni modo, ogni maniera, o oh, che vuoi una moglie. Ascoltando sto brano che mi è venuto in mente, sapete quei momenti in cui alla fin fine tutto quello che fai viene interpretato nessuno capisce niente. Non sai niente di me, ma ti piace parlare sempre di me. Oggi

vita è un viaggio lento, ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino gli porge il sale, e non per la minestra, e non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico, un uomo vegetale. Sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono. È cultura universale o è biblioteca comunale? Fra il celeste e il profetico, il religioso e il mistico, il maschio e la sua conquista, il puro e il diabolico. Fra il politico e il possibile, il passero e l'azzurro profondo, il rosso e il suo tramonto, la voce e lo spirito. Scelgo di camminare in silenzio accanto a te, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo. Vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo. Sempre, sempre, sempre, sempre, sono un uomo libero. allora lascia che il cinema faccia la sua parte, come il fischio del vapore incanta i cani. La macchina da presa è amore e commercio, ombre e luce. Voltati per un sorriso qui nel buio, tienimi la mano, guarda come corrono quei due nell'ombra. E che bagliori fa. Devo dire che in tutta questa sequenza per me è stata massacrante. È stato un massacro. È stato un massacro di ricordi che volevo annullare. C'è un termine olandese che mi è stato spiegato ad Amsterdam quello che il suo significato è due. È parallelo al nostro ciao. Però in Olanda Dui vuol dire addio. Vuol dire se noi rapportiamo addio al nostro concetto di cultura, significa non riversi più. Ma se noi rapportiamo gli stessi termini nella nostra cultura, nel nostro modo di fare, allora si va. È come quando tu usi il termine Dio. Allora io non, ancora non ho trovato il mio Dio, ma non ho detto che non esista. Ma Aqualung and cold. An old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurling fast as he bends to pick a target. He goes down to the bog and warms. Dover morire per dir di vivere. faccione ni me finirà quando avrai occhi che sappiano guardare, mani che sappiano tenere, occhi che vogliano imparare, mani che sappiano tenere. Ricordati chi sei, ricordati chi sei, ricordati chi sei. Quando contro luce vedrai, contro luce vedrai, scritto nell'anima, scritto nell'anima, scritto nell'anima, scritto. Sappiano guardare, mani che sappiano tenere, occhi che vogliano imparare, mani che sappiano tenere. Ricordati di me, ricordati. Ricordati di me, ricordati di me, ricordati di me.